sono Natalino, c'ho l'altro Marco, quello più brutto. Bobacino di radio 6, hai la stessa modulazione di quell'apparato dell'altro giorno. Bobacino, ho alzato abbastanza il volume infatti. Bene, bene. Eia, sì, guarda, la timbrica è buona. Leggermente bassino, ma niente di che, mi ho alzato appena appena il volume e va tutto bene. Eia. Eia, sì, no, qua... Adesso fanno la penichella, sai, gli altri sono anziani e fanno la penichella. Entreranno dalle 6:30 minimo in poi. A questo non entra nessuno, dai. D'accordo. No, no, a parte gli scherzi, qua dormono davvero, Prima di una certa ora non entrano. Bene, avanti, avanti, avanti l'amico. Ciao Fabrizio! Va bene, ciao Fabri, ben entrato. La voce è abbastanza buona, riconoscibile peraltro. Siamo lì, più di tanto non spinge quell'apparato, ma alla fine è buona lo stesso, e niente di che. Niente di che. Abbastanza buona. E cosa state facendo? In giro a fare danno state andando, sì. Ah, ecco. Come si faceva una volta. E voi di modulazione come mi ascoltate? Sto usando il superstar omologato, superstar 3009 incredibilmente omologato, nasce così, e il microfono normale. Bene, bene, guarda, l'acceso per sbaglio, di solito accendo dalle 6 in poi perché prima non c'è nessuno. C'è Pomponio sempre in PMR, deve essere che l'hanno avvitato su quella banda, da lì non si muove. Non ci viene manco più il 27. Ma adesso è il giorno che li abbiamo messo in testa il PMR a tutti. Ehi, e cosa state comprando di bello? Ma roba elettronico? Ehi, va bene, dai, saluta a tutti i componenti della, lì della macchina, dai, ciao, ciao, ciao. Claudio, ci sei qua? Claudio. Ciao Fra, tu arrivi ma non mi senti. Ho sentito C, là, lo stavo chiamando qua anch'io, ma non risponde, Claudio. Vabbè, non è evidente che... Mi è sembrato lui, però non sono sicuro. Anche a me è sembrato lui, ma non risponde qua, vabbè. Forse c'è il portatile, sarà in giro, boh. Non lo so. Adesso vi faccio la bassa che vi devo dire una cosettina. Ehi, fai, tanto adesso ancora è presto, non entra nessuno qua. Saranno tutti coricati che sono anziani. Marco! Rispondo, se no non rispondo a nessuno. Ebbè. Vabbè, ciao Robert. No, ho chiamato io prima, ci sono già da un po' qua in radio, adesso mi fa, ho messo il multiplo, nel senso lo squeccia è solo per i segnali alti. Ho chiamato un paio di volte e non ha risposto nessuno. Vuol dire che io non c'ero, sono andato a portare il cane, però sera qua, ascoltando, e non ho sentito nessuno. Vuol dire che hai chiamato quando sono uscito a portare il cane, Roberto. C'è anche Gianfranco, avanti Gianfranco. Sì, buonasera Roberto, ben sentito. Niente, io ero in ascolto, però non ero qua, stavo girando l'anda a destra e a sinistra. Sì, Gianfranco, ben sentito. Sì, Claudio, a proposito, ti volevo dire, quella roba io l'ho già presa e anche l'hanno già finita, quindi ho già risolto con i soliti canali. Va bene, no, anch'io così, mi stavo girovagando per non tanto, poi 20 girando a destra e a sinistra, poi stavo ascoltando un po' il PMR, i ragazzi della Via Crucci lì, che tutte le sere fanno question, almeno fanno qualcosa, invece noi non fermiamo più niente. Abbassa appena a tassi un braccio. Abbassa appena, non mi hai toccato niente, questo è il 440, non mi hai mai detto niente. Cosa devo abbassare? Mi dà già uno, 4.40. Non sembra più forte di ieri. Sì, sente anche la gente a parlare, capisce quello che dice, figa. E quello è il televisore, non è la gente, non ce n'è gente qua. Come ieri mi ha detto che era più forte quella là di questa. Questa è 4.40, non ho toccato niente io. Non tocco mai niente. Le regolazioni sono quelle e quelle rimangono. Previsione, non mi vale tenere la porta chiusa, Gianfranco, posso chiudere la porta e... Capito, però rimango isolato. Ma ti stai parlando più vicino rispetto al SUV? Io sono sempre a 50, anche a un metro parlo io. Non mi sono mai avvicinato al 1,60 e ho segnato io la gente a parlare con il 1,60. Comunque sei molto forte, dai. C'è il limite tra la pagina del rosso. No, non stai distorcendo, ma si vede ogni tanto la lucetta rosso, forse alzi un po' più la voce. Guarda, sto parlando più sereno di così non si può. L'importante è non distorce, capito? Già va bene, ok. Sto controllando, ma non penso comunque di aver toccato niente. Non penso di aver toccato niente, perché infatti a uno, i chichini a uno, come sempre, avanti già fra. Sì, sto dicendo, l'ho preso la cosa, la maglia rosa, c'era tutti i connettori, c'era anche l'antenna, ho preso tutto con una volta, già finita senza muovermi, andare a girare. No, guarda, io non ho girato niente. Non ho avuto tempo per niente questi giorni, sono impegnato a fare altro e quindi non ho fatto niente. Poi al telefono mi ha detto se mandava qualcosa a Cagliari, mi telefonava. E vabbè, e tu Robè, tutto a posto? Tutto a posto e niente in ordine. Cazzate i fissi? Sì, li hanno messi ieri mattina, adesso devono mettere a sigillare esternamente con un po' del silicone. Sì, ma le guarnizioni tutto ti ha messo? Sì, ha fatto tutto, già lo conosce a Gennaio, sì. Io non ho mai chiamato Gennaio, lo chiamo Iaio. Anche io lo chiamo Iaio, però dico, magari qualcuno conosce come te Gennaio. Conosco anni, tutte e tre li conosco, tutti i fratelli, non problemi, capito? No, non lo siamo perso. Grande lavoratore, come il padre tra l'altro, perché il padre era un Mastro Vincenzo, era un grande. Sì, adesso purtroppo come è morto lui, poi si sono separati, non è andata come doveva andare la situazione, va, preso tre officine e una attaccata all'altra. Comunque sono grandi lavoratori tutti, quello che sta andando più avanti meglio è Coso, il più piccolo, Luigi, ha gente in gamba. Ricordo da quando erano bambini, sono nati da noi, nella squadra nostra, 12 giocatori della squadra nostra. Gianmario giocava, io giocavo, ma... il bomber era gesuino, bravo, Gesù ha giocato a Serie D, dimmi. Non era con noi, non l'abbiamo venduto noi, era con noi, è andato a giocare poi col Sennori. E la sua famiglia la conosci, la parte della vetreria? Sì, già li conosco. E Gesuino poi ha giocato anche con la Erro, col Sennori, grande centravanti. all'aereo, era molto bravo. Non lo so, mi sono fermato al Sennori in Serie D, poi non so se abbia fatto qualche partita con qualche altra squadra. Lui ha iniziato con noi da ragazzino ed era una forza natura, una cosa spaventosa, come giocava a pallone lui, centravanti di potere, tipo come può essere Uruguay, solo molto più forte di testa, nel senso paragonato alla categoria che stiamo parlando, era forte, era un torello, non lo fermava nessuno, faceva una marea di gol, era troppo forte. Poi è andato col Sennori e ne ha fatto altrettanti. No, stavo parlando del cugino che ha lo stesso nome, non diciamo niente di quello che abbiamo nominato prima, che cacchio, quello sì che l'ha fatta grande. Lo so, io tutte le mattine ero in officina, tutte le mattine, quando facevo i turni, allora lavoravo a Pelfo, stavo tutta la mattina lì, tutta la mattina in officina, e allora erano tutte e tre assieme. Capito? Poi il primo che si divise a Iaio e poi è successo il patatrac tra Gesine e Luigi. Vabbè, c'è la stata Marco Vicente, una rosa stesso. Vai Gianfra. Senta, sto facendo delle cose, o meglio, sto cercando delle antenne per portarti. Non è che tu qualcuna vecchia ce l'hai? Qualcuna vecchia? La giro da te io e poi me l'hai restituita, te me ne hai dato anche un'altra. No, per portatili, quello in gomma, mi. Gianfra, io l'unico portatile che ho è quello tuo che è qua, devi passare a prenderti, e l'altro che è lo stesso, è quell'altro che mi aveva detto tu, il Vox, non basta, ne ho altri portatili. No, però forse sia qualche antenna, così vuole portatile a Vox. Posso discutarla, potrebbe servire, va bene, continuo la ricerca, rimango in ascolto, vi sto ascoltando, dai. Gappa, avanti, Robert. E io, tutti. Okay. Ma cosa riconosci tu, la cosa, la famiglia? La cosa? La cosa riconosci, non ho capito, ma tu non eri il Bosso d'Orla. A me bene, ma quando sono arrivato a Sassari? Sono arrivato a Sassari allora, nell'85 mi sono sposato ed ero già a Sassari, ed ero già residente a Sassari dall'80. Ah, io pensavo fossi venuto da grande. Dal 1980, prima ero residente via Montegrappa perché lavoravo già a Sassari, ok, ero già fidanzato quindi, lavoravo con i miei suoceri. Ed ero residente via Montegrappa, numero 3, esattamente. Poi nell'85 ci hanno consegnato la casa qua e mi sono trasferito qua, ma io già dal 1980 ero a Sassari. Ma è vicino a loro, questo numero 3 è vicino alla, come si chiama, al fabbro? Esatto, all'angolo, capito? All'angolo tra via, proprio l'ultimo palazzo che aveva costruito i Sini, che è cognato dei miei suoceri. Il mio socio abitava lì prima di venire qua, alla casa sua era lì, ci abitavano tutti lì via Montegrappa 3, lei, la sorella, il fratello, capito? E per quello li ho conosciuti, perché l'unico bar che andava a fare colazione era quello lì di via Riccello, e quindi da lì siamo conosciuti, ma erano combinando tutti i colori, ma combinato davvero, Poi se gli hai andato era tipo che si tirava indietro, se c'era la scappa c'era la rissa, quando giocava a calcio Gesuino era più tranquillo, ma Gianuario, mamma mia. Sopra di lui adesso abita Bruno, quello che viene a fare burro in officina la mattina. Sopra di chi? Sopra l'officina di loro, però da c'entra la via Cardinal Fossati. Sì, ho capito, sì. Avanti Brecco, e non gridare che già mi stai facendo sordo. Radioamatore con la patente F, quella da invalido, no da gente. Ma perché uno allora c'ha il radio, tutti sono radioamatori. Io sono diventato radioamatore nel 1993 e ho fatto 20 anni di pirata prima di essere radioamatore. E ho sempre avuto la stessa radio che ho adesso, cosa c'entra già? Assolutamente negativo. Non c'è nessun radioamatore, si chiama Lombau, capito? L'unico era lui. La di scaffo. E infatti era di scaffo. No, non era radioamatore. Lui che avesse radio vecchie, questo lo so, perché a lui piaceva molto le linee valvolari, non so se c'è la linea Ricraft, ma sicuramente qualcosa della Drake c'ha, o della Drake, o della Sommer Camp, della Tentec, non lo so. qualcosa ce l'ha, ma che il figlio Marco lo conosco perfettamente, sia radioamatore, assolutamente no, l'unico lumbao era lui, capito? Avanti Robert. Eia, ciao Gianni, ben sentito. Eia, ti sto dicendo, ma non era radioamatore, ma Roberto ti ha salutato, non lo rispondi? La linea di carte, no, ce lo so io quella Sassari. Va bene. E io lo so, sì, a me fai con i sci. Cioè, vedete, abbiamo combinato tutti i colori con Gesuino, con Iaio e con Luigi. Ma quello che combinavamo in via Rezzetta era una cosa allucinante. E spuntini che non abbiamo fatto. Tu immaginati quando si è allagata lì la casa di Iaio, di Luigi, ma di Gesuino, noi la settimana prima eravamo tutti lì facendo spuntino. Capito? Di domani vi era un metro d'eva. Addirittura. Aspetta, se lo conosci a Iaio, diglielo per essere un balle. Un metro d'acqua, capito? È successo un casino nero lì. E poi gli hanno dato terreno, insomma, più avanti, dopo che hanno costruito la strada, il ponte. Luigi abita proprio al lato opposto del ponte. Gesuino è che aspetta, c'è una casa micidiale molto molto bella, anche Iaio. Vabbè, la storia non la posso raccontare in radio, se ti racconto la storia fa troppo ridere, quando ci troviamo già te la racconto. Gianni, ti sto dicendo che patente non ne ha, cosa 2010, non ne ha patente. Fatti dai il nominativo, entra su correzzetta.com, digita il nominativo e guarda se ti dice nome e cognome, Marco Lumbao. A me non mi risulta che sappia io. No, perché io sono nominativi di Sassa, li conosco tutti, quindi che siano vecchi, che siano morti, che siano esistenti e non trasmettono, lo so chi ha la licenza e la patente, quindi molto per quello. L'unico Lumbao che c'era Sassa era lui. Capito? Alfa Kawiski. Ok, ma cosa mi devi dire? Vabbè, che il gandoiaio si è appiccato allo tralicio, eh? Ah, questa è la storia. Io, ti ho detto che sono vinto i miracoli in tutte e tre, ma a me lo siete, eh? Se c'ero io sotto, c'ero io sotto, io, fratello, tutti e due fratelli, le mogli, amici, eravamo tutti sotto, che hanno detto si è appiccato, è andata a vera perché... Stava anche per cadere, non so, perché era un bel stanco, era nervoso, era incazzato nero per il fatto che era successo con l'ANAS, capito? So tutto io, no? Infatti vedeva, oh Gloria, dice, mica la piscina ancora non l'hai fatta, non ti fa che piscina non ve n'è. No, ma poi era tutto organizzato, non so se lo sai, era tutto organizzato, alla fine gli hanno dato molto, ma molto di più di quanto gli spettava, perché lui la casa per deve arrivare a 100 ne aveva dato tre volte tanto. Tutte e tre gliel'hanno triplicata. Tutte e tre, infatti Gesino ha fatto un villone spettacolare, ma anche con la Iaio è molto bello. Luigi non lo so se l'era finita, era ancora da finire quando scendevo io, però io frequentavo molto la Gesuino, molto molto molto. Poi è successo appunto quando sono separati un po' di casotto, l'avevo venduto fuoristrada io, fuoristrada bianco, il Toyota, no, cosa sto dicendo? Toyota, era il Paiero. Paiero bianco che c'era Gesuino, quello lì era il mio. Ma tu l'avevi dato? Sì, e da lì è successo un po' di casino, capito? Perché è andato in campagna e gli si è spaccato il semiasse in due, ma avevano in braghiera tutti a caccia, ha preso un masso che poi me l'aveva spiegato Pietro Moro, dottor Moro, non so se lo conosci, sino a quella ero che giocava a pallone anche lui. Se l'aveva presa con me, ci l'aveva dato la macchina con il semiasse saldato, ma io dico c'era una macchina con il semiasse saldato io. Infatti ho ambiziato malamente anche con Pietro, con tutti ne è uscito male Gesuino, perché poi è diventato, non so neanche come definirlo, capito? Perché Pietro ce l'aveva uguale a quella verde, io ce l'avevo bianca. E lei ha detto, ma Claudio ci metto, io manco sapevo che si mi asse figura, ha detto tutti si è cotto, si è salito sopra una roccia e si è spaccato, si mi asse in due, si mi asse saldato, ma buffonendici. Quindi da lì abbiamo avuto un po' di battibecchi, siamo arrivati male, male, l'ho detto il giorno, era messa male la cosa, insomma lei aveva detto tutti i colori eccetera, quindi a me mi si erano girati un bel pibirizzi e mi c'era Iaio davanti, se non si mette Iaio in mezzo ci attacchiamo malamente. E quindi niente, siamo un po' staccati, poi siamo un po' riviti, poi lui è stato male, insomma la greppa si era un po' mollata, anche Gaetano, sotto me abita Gaetano Pompili, c'è Graziano Carta, c'è Danilo Carta, tutti ex giocatori che tu ben conosci, quindi eravamo tutti in quella greffa di Gesuino, l'unico che non giocava a pallone ero io. Così Roberto, cosa è successo? Cioè? Ti si è ammassato tutto di radio. Vabbè, sono un po' lontano. Cazzo di radio? No, non è proprio radio, tocca l'MC60, fai qualcosa. Prova a vedere. No, no, no, la PTT sotto, sollevalo, vai avanti e indietro con la levetta. Con quale levetta? Con la levetta, a 40 livelli l'MC60, sotto c'è la levetta, in auto, muovi, muovi. Come? Sto uscendo. Adesso sì. Ogni tanto muovilo quell'interruttore che c'è sotto, in auto. Muovete, Riccardo, che si inchiodano e si chiude il circuito di preamplificazione. Ma quale interruttore sta dicendo che non ha l'interruttore? Io ce l'ho sopra, c'ho l'interruttore, no, l'off e l'ho spento. E qui c'ho l'interruttore 50 e 500. Non c'è il trattino sotto in out? No, non ero io il trattino, è il trattino sotto. E cos'hai toccato? L'impedenza? Ho toccato l'interruttore di accensione, on off, adesso la cosa canale dell'interruttore, aspetta, è in posizione off, non ha più preso qualcosa ed è sta funzionando. Sì, in posizione off, cosa c'entra? Vabbè, mi sembra che sia arrivato ieri. Allora, se tu non usi il PTT e lock del piantone, ok, non usi quello, usi quello del microfono, on off per il PTT, matto. Se tu invece usi il lock, il PTT del piantone del microfono, quello lì lo devi tenere in off. Che cosa vuol dire? Ah, ho capito, no, no. Però io non l'ho mai toccato, l'ho sempre lasciato così, come me l'hai dato, non l'ho mai toccato con l'interruttore. Ma ogni tanto muovilo, muovilo, capito? Perché quell'adattatore di pensa, ogni tanto va mosso, se poi sotto c'è l'interruttore muovi anche quello, perché l'M60 è difettoso di queste cose, si inchioda e non ti fa uscire di radio. Cosa stavi dicendo, Capri? No, no, no, no, è infermiere all'ospedale, al policlinico, no, mercoledì arriva, domani dovrebbe arrivare, e vabbè, io quello l'ho preso per trovare sul DAC, se va bene, ma sicuramente c'ha troppi acuti, troppi, quindi sarò costretto a tenerlo basso oppure a rimettere l'MB più 5, paziente, farò la girampado 80 euro. Dove ti dica, perché l'avevo già provato, c'ha troppi acuti, la mia modulazione è troppo forte, quindi sicuramente va meglio con la regolazione dei toni l'MB più 5, vai Roberto. Ok, ma chi lo voleva l'SB e il coso? Tu o lo Capri? Capri stava cercando l'SB per vedere il come si dice, oh Gianni, il coso ti serviva, no? Lo schema di come è fatto dentro, esaurito. Ah, Giulio lo vuole, sì. No, forse avete capito male, lui sta cercando lo schema del tanner, non dell'SBE, Giulio, che lui faceva quei microfoni in legno, ha detto quando vuole, boh, non lo so. Io l'altro giorno quando l'ho sentito stavamo parlando di Italia, comunque vabbè non cambia niente, ce li ho tutti e due in ogni caso, anzi ne aggiungo tre di SBE addirittura. Uno me l'avevi fatto tu Capri mi sembra, ma ci credi che l'unico microfono che non ho mai provato, tutti gli altri che ce ne avrò 12, 13, forse anche di più, una quindicina ne ho di microfono, quello lì è l'unico che io non ho provato, l'SBE. Sì, ho commutato l'altra radio, questa com'è Roberto, più alta o più bassa rispetto all'altra? Aspetti, accendo, se sento qualche differenza, fammi vedere. Sì, vabbè, orecchio, non è che questo è il 14, ho fatto andando con il 4,40. sono allo stesso livello di coso, di come si chiama, di livello, sei tutti e due a più 12 qua, arrivate tutti e due allo stesso coso, lampeggia rosso a più 12. Ah, butto la via sulla radio. Ciao, buonasera. Va bene. No, ma il livello mio è sempre questo, roba, io non grido, sto sempre a 50, 80 centimetri dal microfono, proprio rilassato tranquillamente, per quello mi sembrava strano. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato, avanti. Capo, buonasera Roberto, buonasera Capo 2, ben ascoltato, ho sentito solo a voi due, a voi tre, non so se c'è un frequenza. Avanti, ciao Franco, benvenuto. C'è una modulazione tu Franco, uguale a Salvatore Maestrale. Se cacchio, se ti ripresenti come Salvatore Maestrale, sembri lui. Probabile. No, io non so neanche com'è la mia modulazione perché non mi sono mai vero che vuol dire che già va bene. Avanti, Capri. Sì, vabbè, importante, ci sentiamo, poi una radio vale l'altra, io ce li ho sempre in ordine queste, le faccio girare un pochino, dai, giusto per farle andare. Ok, vabbè, no, fra la tua è perfetta la modulazione, va benissimo la grande, no? Con Roberto siamo molto vicini, quindi se aumenta la radio è più che altro fastidiosa, capito, anziché che bella. Riprendi Roberto. Ma lui è un 44 o un 14? No, lui è un 68, lui sta usando il 68, gemello del 14. Sì, sì, no, infatti si sente lo stacco. Ma va benissimo, naturalmente tu sei molto più forte, siamo più vicini, però probabilmente c'è anche il livello microfonico un po' più alto rispetto a lui. Io ce l'ho sotto la C, praticamente a metà, non lo metto mai al massimo a livello sia del quello slider, per capirci, sia 80 e 140, perché non ha nessun significato. Tanto spingo bene con le corde vocali e quindi se no sarebbe ancora più forte roba. Vai Fra. Sì, ma anche io lo uso sotto la C, lo uso. Diciamo che quando usavo il 44, quando usavo, bastava aumentare un pochettino l'inchini e era molto più forte, infatti allora mi dicevano cose, allora abbassavo perché andava sempre a uno, andava in più, non si parava e faceva, era troppo alta la modulazione. E purtroppo, perché da un apparato all'altro cambia molto. Sì, sì, è vero. Poi col cacchio del 140 e del 180 a me l'unica cosa che non mi è mai piaciuto è quel sistema slide, che sono talmente sensibili, appena li tocchi appena, non dico tanto il microfono, con la potenza, devi farlo proprio con la punta delle dita, è una cosa scomodissima, non ho mai capito per quale motivo non hanno usato i potenziometri rotativi come il 440. Sì, infatti, c'hai ragione, quelli lì sono, infatti io non li ho parati, li ho messi in una posizione, ovviamente non li ho più toccati questi qua, perché come dici tu, o vanno troppo, troppo avanti o vanno troppo indietro. Non c'è spazio dietro, Robè, non c'è spazio rispetto al 440 per mettere il potenziometro. Se tu guardi la radio è leggermente più stretta, capito? Non c'è spazio, sono... perché poi sono tanti i potenziometri che devi mettere, sono 4 slider, capito? Mentre il 440 ne ha due in più, lì sarebbero 4, dove li metti? Non c'è lo spazio per ruotare, per fare, no? Non era fattibile, quindi hanno adottato sia al 70 che al 140, che sono gemelli in tutto e per tutto, anche dentro il 70 in più del 140 c'è solo una scheda in più, aggiuntiva tra l'altro, quindi mi è capitato a me di vedere sia 80 a 150 MHz, la scheda l'ho tolta, ma l'ho venduta a parte, interessante, molto interessante, sono gemelli, tu li apri dentro, anche il frontalino è gemelli, sono uguali, precisi identici, non cambia niente, proprio sono uguali, e quindi hanno adottato quel sistema lì per questione di spazio, niente di in più, mentre il 430 con 440 che sono uguali c'è lo spazio, infatti i pomelli sono 4, potenziometri sono 4 del 430 e 4 sono del 440 nella stessa posizione, nello stesso posto, capito? Va bene, avanti i capridori, prendi. Prendili qua che servono questi. Sì, sì. Sì, già, se li trovi chiamami, ci vediamo e me li dai, perché servono sempre quei cosi, servono sempre quei pomellini, quegli attacchi, pulsantini, intanto sono uguali, 4.30, 4.40 sono uguali, non cambia niente, capito? È tutta roba da conservare. Tu Roberto, non ne va vedendo. Non ne va vedendo di chi ci hai mai detto, per carità. Ehi, ok, va bene. Va bene, scusatemi, Franco, da dove stai modulando tu? Da sotto sto modulando, Roberto. Ah sì, quindi sei quel Franco che avevo sentito l'altra volta. C'è solo una radio diversa, beh. Un po' più fedele rispetto all'ultima volta che ti avevo sentito, no? La mi ricordavo bene. Qui sta arrivando abbastanza bene, sei un 9 più 10 qua, disegna nella radio 5, ultima, va benissimo. Capri, anche tu sta andando bene, anche se puoi andare meglio. Tu sei sempre sperimentando e facendo cosa, Gianni? Trova una radio, l'hai trovato l'accoppiamento giusto, microfono e trasmissione, non toccare niente e rimane così. L'ho dato io il microfono. Fatti dare tutto quello che c'ha del 44 qua. Sono cose belle da tenere quelle, perché ti si rompe, non fai altro, c'ha due vittine, lo togli, si rompe, glielo metti nuovo. No, ma pomellini, tutte queste cose dei frontalini, di tutte le radio, conviene sempre tenerle, capito? Perché magari ti si rompe, non fai altro che staccare e mettere quello nuovo. Gli trailer sono molto più pericolosi, perché si consuma il carboncino, ciao, arrivederci, buon viaggio, da sostituire. Io ho quello di coso, come si chiama, di Massimiliano, gliel'ho sostituito, quello del Mickey Gaffra, l'ho sostituito perché no, è inchiodato proprio, non, come lo toccavi, gracchiava, tutto incasinato. Santo Antonello me l'ho fatto di saldare, con la radio aperta, perché io non c'ho saldatore adatto, e gliel'ho messo perché ce l'avevo, capito? Gliel'ho rimesso, è perfetto. Però quelli si consumano prima dei potenziometri, fra, capito? Quindi bisogna averne sempre qualcuno di scorta. Se ti capita che li vedi su internet, soprattutto gli Israele, prendili e te li conservi, li prendi. Certo, sì, quelli sono noi avvieni. Se tu per caso qualche volta mi prendo qualche lavoro, se ti serve il salvatore lo farei con tutti, però con l'aria calda, su tutto. Quello io non l'ho mai comprato, fra, perché grandi lavori non ne faccio due fesserie, capito? E tra l'altro non ci vedo neanche più come prima, quindi quando capita o mi avvicino da Gavino, lì in laboratorio, o vado da Antonello, o vado qua, capito? Me li faccio fare queste cose, dai. Niente di particolare, con lui gliela faccio, sono i figli attaccati, niente. C'è il rincasso suo, lo toglie e lo sostituisce. Però si consumano molto, molto prima dei potenziometri, perché sono delle guide proprio che ruotano da una parte all'altra, quindi vanno sempre lubrificati con un buon spray per contatti, in modo che non si metta polvere in mezzo, che non raschi e poi diventa un casino. Vanno sempre lubrificati quelli, mai con roba oleosa, sempre con uno spray a secco. Capito? Vedi che funzionano bene. Vai Roberto. Sì, sicuramente è meglio sempre farli muovere queste parti in movimento. Allora, un'altra domanda, Capri, visto che c'hai un po' di imbarazzi, guarda se c'hai, che ho chiesto a un po' di gente, il tappo per chiudere, dove c'è l'ingresso microfonico, proprio il tappo. Io normalmente me l'ho fatto con un coso, con quello di un aspinotto microfonico, ci ho messo il gommino, però esisteva una volta proprio il tappo a chiusura, non è che ne ha di quelli. Sì, il tappo proprio per chiudere quello lì, chiuso però sto parlando. Sì, c'era una catenella con la polvere di metterlo, ma anche senza la catenella. L'importante è che ci abbia il passo del microfono normale, standard, di tutti gli apparati tipo gli HF e tipo i baracchini, che tanto è standard. Io sto utilizzando l'attacco, prendo un coso di un microfono, ci ho messo il gommino per chiudermi questi coso microfoni. Hai capito? Ok, ciao Gianni, buona cena, buon tutto alle prossime, vai fra. Ciao Capri, ci sentiamo tutte le prossime, buona cena, buon tutto, ci sentiamo le prossime. Certo, avanti, Vabbè. Sì, Capri, buon tutto, ciao, ci sentiamo prossimamente, ciao ciao, buona cena. Vabbè, ma tu mi tappenti, prendi uno di quelli del microfono, la ghiera che è filettata, c'ho un braccio, tappenti, le fai un lamierino dall'interno, intacciato bene dentro, le dai una vernicettina di nero e ti lo vai giù. Sì, ma li ho fatti, allora tieni presente che ne ho uno originale, quando compri l'apparato, quello proprio in gomma a misura che te lo chiude, il 140 è chiuso così, il 440 è chiuso con una ghiera di questi che stai dicendo tu del microfono e ci ho messo un gommino perfetto, però non mi piace, è più bello, e poi ne ho un altro sopra, però non ci ho messo il gommino, c'è il tappo senza il gommino, ne voglio uno di quelli belli che sono più carini anche esteticamente, quelli classici come sta dicendo lui, anche se quelli delle radio militari sono molto più grandi, li usavano per certi apparati marini, cose del genere, per non farci cadere la salsedine. Sì, sì, per non dare colpi alla frettatura. No, vabbè, io no. Ce l'ho tutti con i microfoni attaccati e quindi no, non mi serve, però non dovendo usare qualche radio la tengo così. 9:25 sono, io vi lascio, vai, vado a cenare. Ci sentiamo domani, Robert. Ciao Fra, ciao di nuovo a tutti quelli che sono su 10. Manca corto, me ne faccio mia moglie, ho detto, ma ceniamo oggi o non ceniamo? Ciao a tutti, a domani, ciao ciao, riprendi Fra. Ciao Claudio, buona cena, buon tutto, ci sentiamo. Anche io adesso chiudo, dai, mi sono accorto l'orario, è tardi anche per me, dai, buon tutto Claudio, buona cena, ci sentiamo prossimamente anche con te. Franco, ti lascio anche io, mi dispiace lasciarti, non so se ci sia qualcuno, comunque volete da parte mia, buona giornata e buon proseguo per domani. Un certo quadro industriale, cose così, di giochi. E cioè non c'è la cartolina attaccata. Già lo so, però io molte volte vado in questi mercatini, in queste cose che vendono roba tipo mercatino dei pulci, non ne ho mai visto, ci credi? E ci vado spesso, non ne ho trovato da nessuna parte. Maria, se vanno alle fiere dei radioamatori, quelle che fanno fuori, a Genova, a Novegro, eccetera, eccetera, ne trovi la Lampadura. Sì, lì li puoi trovare. Ok, dai. Ciao Roberto, buonanotte, ciao ciao.